cambiamento è movimento, il movimento è vita, la fissità è morte. Lascia che la realtà esterna ti invada, ti trasformi. Siamo esseri mutanti. La nostra identità può essere una e multipla al contempo. È come un complesso mosaico. Un'identità forte, una personalità sicura di sé, sa mettersi in gioco. Accetta il confronto, le contaminazioni esterne e il cambiamento se necessario. Per questo amo le identità multiple, le nature nomadi. Abbiamo la possibilità di andare altrove, di andare a vedere cosa c'è dall'altra parte, per capire cosa siamo, cosa potremmo essere. L'uomo è un improvvisatore culturale, cambia costantemente e si confronta con le circostanze. La cultura non è una prigione mentale, ma una liberazione creativa. Mettere insieme due culture non significa che una delle due dovrà perdere la propria identità, ma che esse devono servirsi dell'incontro per crescere insieme. Crescere significa mutare. La mutazione porta alla metamorfosi.